spingo. Squillano a squillo, forte un cazzo del parere senza gioia li brillo. Bimbo, double face come Ringo. Ringhi a questi bastardi che pensano già ad avere vinto. Making nasty, fa il brutto. Parlo a sti crasti rimasti come accaduto. Brucio un'altra cima, lacrime salate alternate da parole avventi. Tardi serate chiudono la mia ultima cartina. Fallo brutto perché ci pensi. Fallo brutto quando mi pensi di affondare come naufraghi dispersi. Ti voglio bene lesti nei suoi occhi persi. Uno è perso altrettanti da non sembrare più stessi. Altro che sasso sopra l'onondati di testi. D'amore ed amicizia non solo parole e gesti. In questa immondizia chiamami tsunami d'emozioni. Appena passo sopra la ribatto pussy squirta. Fallo brutto, fallo brutto, lo faccio da campione, concesso tutto. Sei pure brutto, basta che do un'emozione. Lo faccio brutto come il becchino, le mie barre sono sempre brutto. Make it nasty, drop, drop, in off, bitch. Make it nasty, make it nasty, make it nasty, drop, drop, it on, bitch. Make it nasty, make it nasty, drop, drop, it, make it nasty, make it nasty, make it nasty, drop, drop, it on, bitch. Make it nasty. Umile attatto, voglio il contatto della gente, non contatto. Nero sbatto, talento vero, dove manca un velo. Dove vedo non vedo, non è più una trasgressione, mi è diventata un credo. Ho imparato, forgendo la straguancia. Mai dimenticato che dopo quella ne sono un'altra. Fotti l'abitudine che non riesci a lasciarlo, continua a baciarlo. Non le palle piene di ste cose stupide, resta a chi non cede mai. Un altro lo lancia a chi mi teme, sai. Sarà per sempre la mia forza, nelle ossa, in questa folla. La tipa sotto al palco, da quando ho iniziato barcolla. A tratti decolla. La rolla, doppia LO, la guardo impanicato, ricorda non si è mai mossa. Diventa rossa, regalo tutto a sto pubblico. Il terzo e ultimo, bacio a chi non c'è più. Fallo brutto, lo faccio da campione. Concesso tutto, seppure brutto, basta che dai un'emozione. Lo faccio brutto come per il becchino, le mie barre sono sempre a lutto. Make it nasty, make it nasty, drop, drop, it on, bitch. Make it nasty, make it nasty, make it nasty, drop, drop, it on, bitch. Make it nasty.